Incontri di Gianfranco Fabi. Della Sinfonia del Nuovo Mondo di Anton Dvorak, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Fabrizio Nida. Buonasera a tutti. E la Sinfonia del Nuovo Mondo, un titolo che indica certamente qualcosa che rappresentava un valore per Dvorak, ma che rappresenta anche qualcosa per noi. Siamo in un mondo nuovo. Beh, sì, non era la novità che allora pensava Dvorak, suppongo. Comunque è un segnale interessante di guardare al futuro, diciamo. Lui era un po' come Tocqueville un secolo prima, diciamo, quasi, guardando al futuro. E quindi siamo adesso nel futuro che dobbiamo costruire. Eh sì. Fabrizio Nida, docente di economia, docente da lunghi anni, possiamo parecchi, dirlo, sì. Parecchi anni, ha iniziato nel 70 a insegnare economia. Sostanzialmente sì, sì. Come incaricato, poi andato in cattedra e sono ormai da più di 6 anni in pensione. Quindi docente emerito di economia, si dice così? Sì, per si dice così, si dice così. Il titolo di emerito un tempo era riservato, credo, a pochi, adesso ormai devo dire che tendono ad elargirlo a numero elevato. Comunque sono professore emerito della Bocconi e ho continuato a insegnare ancora fino a quest'anno alcune ore della mia materia. E tra un insegnamento e l'altro ho trovato il tempo anche di fare il presidente dell'ICE, l'Istituto del Commercio Estero. Sì, tra il 95 e il 2001 ho fatto questo che io chiamo servizio civile, cioè come distaccato in un'amministrazione pubblica. Inizialmente ero amministratore straordinario perché lì c'era commissariato, poi ho fatto la presidenza per 4 anni e terminati 6 anni io stesso ho detto che ne pensi il nuovo governo? E il nuovo Parlamento, non posso immaginare di fare altri 4 anni, se no mi taglierei fuori definitivamente dall'università, e quindi sono rientrato in Bocconi. Quindi un po' di servizio civile sul liceo, magari parleremo, esatto, anche della politica di commercio estero italiana, ma facciamo ancora un rapido excursus della sua carriera. Ha fatto anche parte di commissioni internazionali, sì. Quale ricorda con maggiore soddisfazione? Beh, una abbastanza minore, se vogliamo, ma importante nei contenuti, quando ho fatto lo Sherpa, tra virgolette, di Carlo Zeglio Ciampi, in una commissione istituita dalla Commissione Europea intorno alla metà degli anni 90, per ragionare su integrazione europea, integrazione monetaria. Questo è un ricordo abbastanza fresco. Poi, andando indietro negli anni, naturalmente ricordo ancora con gusto quando più o meno 2 volte all'anno andavo a Kiel, all'università di Kiel, dove si teneva la cosiddetta Konjunkturgespräch, una conversazione congiunturale in cui, a parte gli ospiti tedeschi che presentavano l'economia tedesca, c'erano un po' di interlocutori di altri paesi. Io presentavo l'outlook dell'Italia, diciamo un quarto d'ora di dibattito. Era una riunione abbastanza interessante, anche perché devo aggiungere, a presiedere questo istituto era un personaggio di grandissimo interesse, Herbert Giersch, un personaggio che è difficile definire schumpeteriano, keynesiano, monetarista, un po' di tutto. Era un economista serio, forse. Diciamo che era la vecchia classe degli economisti ibridi che non accettano di essere incasellati in una qualche dottrina o teoria. Poi è stato anche consigliere del CNEL, del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, che è sulla via di estinzione ormai. Come sì, lo sono istituto. Ancora formalmente, perché sta scadendo la consigliatura, così si chiama, adesso alla metà di luglio. Io ho fatto già due consigliature di nomina, naturalmente non delle parti sociali, ma di nomina quirinale, quindi mi nominò nel 2005 Carlo Zeglio Ciampi, Poi nel 2010 Napolitano mi ha rinnovato insieme ad altri, aggiungendo altri esperti. Facciamo parte di quegli 8 esperti che per statuto, diciamo, sono rappresentanti del paese, quindi esperti di nomina quirinalizia, non rappresentanti delle parti sociali. Quindi anche un altro servizio civile, ma veramente sì. Un ente inutile questo CNEL. Ma guardi, io le opinioni possono essere dibattibili o discutibili, nella mia esperienza è ben poco utile, ha fatto delle cose utili, per esempio di recente ha promosso con l'Istat le indagini per il rapporto annuale sul BES, benessere equo e sostenibile. Personalmente ho partecipato a un rapporto annuale che Manin Karab, un altro dei noi 8 esperti, doveva curare per legge, anzi dovrebbe teoricamente anche adesso che però il CNEL è paralizzato, un rapporto annuale sulla qualità dei servizi della pubblica amministrazione. E Manin Karab mi aveva affidato il compito del capitolo servizi alle imprese, quindi ho lavorato a contatto con rappresentanti dei vari enti, ministeri e quant'altro. Un servizio civile ha maggior ragione, proprio perché bisognava un po' scommettere sul fatto che, nonostante un po' di bla bla inevitabile, in questi incontri producessimo documenti che avevano una qualche utilità per il paese. Ecco, qualche utilità per il paese, per la classe politica. Forse la classe politica è poco disposta ad accettare i consigli dall'esterno e forse sbaglia in questo. Sì, ma poi nel caso del CNEL devo dire la radice, il motivo di fondo per cui il CNEL non solo oggi ma già da tempo non è mai ingranato, è che i vertici delle parti sociali, quindi i vertici dei sindacati e i vertici di Confindustria, non hanno mai puntato sul CNEL come vera e propria stanza di consenso e di verifica, così come la legge e la Costituzione, prima di tutto, e la legge costitutiva del CNEL desideravano. In realtà i vertici delle parti sociali discutono direttamente con il governo, con le commissioni parlamentari. Prova ne sia ad esempio che quando periodicamente le commissioni chiamano il presidente del CNEL, attualmente Marzano, a riferire i pareri delle parti sociali sui temi tipo la legge finanziaria, la legge di stabilità e quant'altro, il Marzano va, teoricamente porta ciò che l'assemblea del CNEL, mettendo incontro, ha messo insieme. Poi il giorno dopo, lo stesso giorno, il vertice della CISL, il vertice della CGIL, vanno e fanno la loro audizione. Questa è una prova provata in cui... Poi ci sono altre ragioni che in parte sono legate, cioè la qualità dei consiglieri, alcuni consiglieri sicuramente bravi e dedicati, ma molti sono un po' così nominati per accontentare il buon servizio reso alla loro parte sociale. Sì, magari appunto quelli che si chiamano tra virgolette i trombati della politica, che trovano un per posto. Esempio. Ecco, ma passando ad altro argomento, tra le altre cose che ha fatto è stato anche, ed è ancora, collaboratore del Sole 24 Ore. Sì, nella mia vita diciamo che ho iniziato proprio con il Sole, non ricordo più in che anno, abbastanza presto. Il primo articolo non lo ricorda? No, ricordo solo che, se non vado errato, il direttore allora era Fabio Luca Cavazza, personaggio di grandissimo livello. Beh, direttore che, poi ne ho passati, che mi ha assunto e quindi posso dire di persona che magnifico. È un grandissimo direttore. Sì. 1978-79. Allora mi occupavo più di macroeconomia, tassi di cambio, economia politica. Poi negli ultimi 10 anni, diciamo, ho spostato molto i miei interessi verso l'economia industriale, la politica industriale, che ovviamente l'economia internazionale è parte integrante della politica industriale. Ho cominciato con il Sole, appunto, poi sono passato a fasi alterne al Corriere, il Corriere di De Bortoli versione 1, il Corriere di De Bortoli versione 2, il Sole inframmezzato, adesso sono tornato al Sole ormai da diversi anni, anche se le mie collaborazioni sono, diciamo, limitate a delle colonnine. Ma sono sempre riflessioni interessanti. Ricordo poi una grande disponibilità di Fabrizio Nida quando ero vice direttore Sole 24 Ore, magari lo disturbavo alle 8 di sera per un breve commento su fatti che accadevano, ed era sempre grandemente disponibile, come è disponibile questa sera ad essere con noi in questo nostro programma. Ringraziamo Fabrizio Nida, restate con noi, ma ci fermiamo un attimo, riprendiamo tra pochi secondi. Incontri. allora con le note di Anton Volger, la Sinfonia dal Nuovo Mondo, che ci appunto ci ricorda che siamo in un mondo nuovo. Che mondo nuovo? Lo vediamo con Fabrizio Onida, professore emerito di economia internazionale alla Bocconi, dopo essere stato per lunghi anni professore anche alla Statale di Milano, a Modena, come ci ha ricordato, consigliere del CNEL, ancora consigliere del CNEL, è stato membro di varie commissioni interne e internazionali anche ad alto livello, è stato anche presidente dell'Istituto del Commercio Estero. Quali di queste esperienze tra l'accademico, il consulente, il politico ricorda con maggiore nostalgia, possiamo dire? Ma parlare di nostalgia forse è improprio. Diciamo, un'esperienza per me incisiva è stata sicuramente la presidenza, prima il commissariamento, poi dell'ICE, nel senso che era un servizio, un'agenzia pubblica, nel full immersion nel settore pubblico. Ecco, per me che venivo dagli studi e basta, anche se mi occupavo di economia internazionale, di commercio estero e seguivo gli studi dell'ICE, l'ufficio studi che produce il rapporto annuale, è stata un'esperienza sicuramente incisiva. Nostalgia come tale forse di quando si era più giovani, di quando si era più giovani, si iniziava ad avere un po' di spirito pionieristico quando è entrato all'università. Se la nostalgia si addice meglio a cose antiche, potrei citare qua l'esperienza che feci ancora giovane docente, rientrato da poco dagli Stati Uniti e con quell'insegnamento a scienze politiche, in cui sono entrato nel gruppo di lavoro che Giorgio Foà, allora ordinario ad Ancona, mise in piedi per fare il cosiddetto modellaccio, cioè un modello econometrico piuttosto rudimentale ma efficace di previsione e di simulazione dell'economia italiana. Per cui, insieme ad altri colleghi di Ancona molto bravi e anche qualche collega di Milano come Pippo Ranci ad esempio e il mio collega di Scienze delle Finanze Giuseppe Bognetti, quasi ogni mese andavamo ad Ancona da Milano, 4 ore di treno devo dire, anche oggi non è molto ridotto, non è cambiato, e discutevamo con questa personalità. Giorgio Foà era un economista straordinario, molto fuori dal coro, facevamo dell'econometria non troppo sofisticata. Al tempo stesso, in quegli anni, la Banca d'Italia stava mettendo a punto il suo primo modello econometrico M1BI, così si chiamava. Il nostro era meno sofisticato, però sottoposto a prove di capacità previsiva. In queste riunioni ognuno di noi riferiva, stimava delle equazioni. Io per esempio ovviamente mi sono occupato di stimare la parte delle funzioni di esportazione, importazione, un po' di investimento, e mettevamo insieme il nostro modo di interpretare. Giorgio Foà, che era economista di grandissimo spessore, direi economista dello sviluppo, dell'economia reale, era un dialogo, sì, di economia reale, anzi il nostro modello di finanziario non ne aveva quasi. Però c'era questo gusto del confrontare risultati econometrici non sempre scontati e ragionarci intorno, con Foà che ci stimolava, e poi no, c'erano le immancabili serate per andare in gruppo a mangiare le tagliatelle. La cucina marchigiana è anche un grande richiamo. Sì, in questo senso nostalgia è vera. Ecco, sotto questo profilo, cos'è cambiata in questi 45 anni l'economia italiana? Economia anche internazionale, abbiamo parlato di Nuovo Mondo quando abbiamo cominciato, abbiamo detto appunto la grande attenzione di Foà per l'economia reale, per l'industria, per la manifattura, per le cose, per le imprese, le piccole e medie imprese, lui aveva una grande attenzione a questa grande risorsa italiana. Adesso c'è un po' troppa finanza. Dunque, Foà rimarrà nel ricordo come l'autore di un libretto poco noto, Industrializzazione senza fratture, che significava proprio la valorizzazione del territorio. Al tempo stesso l'economia italiana allora non aveva solo, per fortuna, solo le piccole, aveva anche dei campioni di un certo rilievo, tra cui anche imprese a partecipazione statale. Da questo punto di vista l'economia italiana da allora è mutata notevolmente. Le grandi imprese le abbiamo quasi tutte perse: Olivetti, Monte Edison, anche Pirelli, ormai Pirelli Cavi e quant'altro. Le piccole si sono evolute, è nato dalle piccole, è nato il cosiddetto quarto capitalismo, cioè imprese non più tanto piccole, in grado di fatturare magari anche 500 milioni, un miliardo di euro, qualcosa di più, e quindi diventare non solo imprese esportatrici ma imprese multinazionali con la la presenza diretta all'estero. Questa è una novità che ad esempio negli anni 70 ancora non si prevedeva. Sono stati gli anni 80 che hanno visto l'emergere di questo nuovo ceto di piccole imprese internazionalizzate, di cui adesso l'Istat, la Banca d'Italia, l'Ocse ci raccontano le ombre, le luci, perché sono una parte del sistema molto robusta, in grado di, attraverso le proprie specializzazioni, l'aggiornamento tecnologico, anche l'organizzazione aziendale di imprese moderne, tengono in piedi il Made in Italy, che non è solo, vorrei ricordare, quello dei beni di consumo, certo, della moda, ma anche ancora più il Made in Italy dei beni strumentali, della meccanica strumentale, elettrica, non elettrica, anche elettronica, oltre che di parti significative di chimica e farmaceutica. Ecco, questo sistema si è evoluto. Non abbiamo i giganti, non abbiamo più i grandi. Purtroppo questo significa che il paese, nelle sue vocazioni più tecnologiche, non ha quello che ovunque rappresenta l'attore più interessato a produrre, ad attrarre giovani, in particolare giovani laureati. Ma che cosa rende possibile questo miracolo di medie imprese che si internazionalizzano nonostante uno scenario italiano, interno, che da molti punti di vista è uno scenario che ostacola le imprese, dal fisco alla burocrazia, sì, l'amministrazione. Che cosa rende possibile questo miracolo? Beh, in parte proprio perché quegli ostacoli sono risentiti più pesantemente da imprese che man mano aumentano di dimensione, quindi si scontrano con la complessità, l'opacità della normativa, e le imprese più piccole riescono in qualche modo a cavalcare. Ma anche perché, come dire, mancano i capitalisti. Non ci sono soggetti dotati di capitale proprio che intendono uscire dal guscio della propria impresa, se l'hanno avuta, o della finanza verso cui si sono diretti. Non faccio nomi, e quindi tutte le volte che noi mettiamo sul mercato dei piccoli gioielli o ex gioielli, vediamo che la parte italiana non si fa avanti, non esistono fondi di investimento dotati di organizzazione e di risorse, e quindi molte volte sono gli stranieri che guardano con maggiore interesse, e qualche volta ci va bene, altre volte meno bene. Certamente, ecco, però la capacità italiana di andare all'estero, di esportare, è una cosa connaturata in fondo alle imprese, dato che poi, soprattutto negli ultimi anni, il mercato interno è terribilmente fiacco, se non, per non dire fermo, per non dire stagnante. Ecco, andare all'estero è un'esigenza fondamentale. Quali sono gli ostacoli principali? Quali sono i punti di forza che hanno le imprese italiane andando all'estero? L'ostacolo, allora, non occorre leggere molto delle ormai numerose ricerche che l'Istat e la Banca d'Italia ci producono, l'Ocse. Il primo ostacolo è la dimensione, cioè dimensioni troppo piccole non consentono di internazionalizzarsi nel senso pieno, perché per il banale motivo che ci sono dei costi fissi per entrare sui mercati internazionali, costi fissi di informazione, di insediamento, di canali distributivi. Questo è il primo ostacolo per cui solo le imprese al di sopra di una certa dimensione diventano esportatrici. Poi non basta diventare esportatrici o esportatori, ormai è sempre più chiaro che nei mercati più interessanti, anche lontani e difficili, se si vuole vendere il Made in Italy bisogna essere lì, anche come produttori o almeno come rete distributiva, come uffici di assistenza post vendita. Lei non può vendere una macchina e poi, quando ci sono i pezzi di ricambio, lasciare che il cliente cinese o indiano. Ecco, ma in questo potrebbe intervenire una struttura pubblica, come lo stesso Istituto per il Commercio Estero. Può farlo? Deve farlo? Ma un istituto come l'ICE fondamentalmente fornisce informazioni e supporto attraverso la rete estera, che devo dire è un bel patrimonio. Oggi come oggi, lavorando ICE e ambasciate insieme, sono un patrimonio interessante. Ovviamente dipende molto dalla qualità del dirigente. Poi, per assistere imprese italiane singole che devono andare a investire all'estero, abbiamo altri strumenti, un po' la SACE, un po' la SIMEST. La SIMEST ha una parte di attività che consiste proprio nel entrare anche con capitale proprio in nuove iniziative di investimenti diretti. Ecco, quindi anche una certa politica industriale la parte pubblica può farla. Sì, la parte, anzi direi che stiamo riscoprendo per fortuna che lo Stato ha un ruolo non soltanto di regolatore dei mercati, sulla concorrenza, sul mercato del lavoro, sulla politica monetaria, ma ha un ruolo anche come supporto, io preferisco dire catalizzatore, lo Stato catalizzatore delle energie migliori, perché là dove ci sono progetti di lunga portata, di lunga gittata, altamente rischiosi sulle frontiere tecnologiche più avanzate, è chiaro che il mercato da solo non arriva, ci rinuncia, e questo altri paesi l'hanno capito già da tempo. E in Italia lo sta comunque inseguendo questo obiettivo. Sta inseguendosi con strumenti, adesso in questi giorni c'è un alto dibattito sul ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, che in effetti è avanzata molto da questo punto di vista. Guardando un po' in avanti, guardando un po' al futuro, possiamo dire che abbiamo gli elementi per essere ottimisti? Io sono sempre stato quello del bicchiere mezzo pieno, non del bicchiere mezzo vuoto, quindi la risposta non può che essere sì, dove l'ottimismo però deve essere realismo, insomma, non sfiducia, non critica devastante al declino, non pessimismo sul fatto che con questo paese non si può andare avanti, ma al tempo stesso capaci di influenzare il mercato, capaci di possibilmente di eleggere come rappresentanti del popolo nel Parlamento persone che siano serie, che siano professionalmente dedicate. Purtroppo questo non si applica alla generalità. Vedremo nostri, se potremo farlo nostre, prima o poi questa cosa. Ecco, indubbiamente, però guardando un po' al concreto, alle aziende, c'è una, quello che si chiama adesso una narrazione sull'economia italiana che spesso non corrisponde alla realtà. La realtà è migliore di quanto spesso noi giornalisti, non tutti, ma noi giornalisti la raccontiamo. Sì, questo è vero. Per fortuna diciamo che l'attenzione ai successi, alle nicchie tecnologiche è aumentata, il Sole, il Corriere, Repubblica, gli inserti, i numeri speciali sono spesso costruiti andando a scovare esempi appunto di imprese italiane che si muovono. Poi uno non deve però dimenticare mai il quadro macro. Il quadro macro ci ricorda che l'Italia, come capacità di far rendere le proprie risorse, quella che noi chiamiamo nel gergo produttività totale dei fattori, quindi lavoro e capitale, e da quel punto di vista l'Italia è oggettivamente ancora indietro, e quindi occorre. E abbiamo anche uno zaino pesante a portare sulle spalle che ci hanno lasciato i nostri le normative, padri, la burocrazia, il debito pubblico, la mancanza, aggiungerei, di capitalisti coraggiosi. Comunque, guardiamo con fiducia in avanti, anche sempre, anche con una realtà esterna che certamente non è tra le più facili, certamente complessa, ma siamo in un clima estivo, cerchiamo appunto di guardare in avanti alla ripresa, una ripresa che sia anche concreta, effettiva. Certo. Grazie a lei, e auguri agli ascoltatori. Grazie a Fabrizio Nida, docente all'Università Bocconi, di essere stato con noi questa sera, grazie anche a Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.